Fattogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ucraina, Putin parla di golpe contro Yanukovych, ma poi lo scarica. Si dice pronto a difendere i russi nel paese, ma la tensione sembra allentarsi. Mosca ferma le esercitazioni. Legge elettorale, il giorno dell'aula, probabilmente. L'Italicum approda alla Camera tra centinaia di emendamenti. Renzi, ce la faremo, sarà una rivoluzione. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Lombardia. L'organizzazione aveva anche una sorta di banca clandestina. A Reggio Calabria bomba in un negozio, esplosa ieri sera in pieno centro, in orario di passeggio. Stanno aumentando di nuovo gli episodi di intimidazione legati al racket in città. Pompei, ogni crollo è una sconfitta, l'Italia si attivi, dice il commissario europeo agli affari regionali. È in corso un vertice al Ministero dei Beni Culturali. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Notizie che se volete potete commentare al 349-238-6666. Per osservazioni, critiche, complimenti, tutto quello che volete, c'è l'email effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dall'Ucraina, come spesso facciamo in questi giorni, in una giornata che tra l'altro, forse anche per l'allentarsi delle tensioni, è più tranquilla sui mercati. L'Italia in questo momento vede il FTSE MIB guadagnare il 2,5%, il FTSE All Share altrettanto, e bene fanno anche le altre piazze finanziarie europee. Ma la situazione sul campo ce la chiarisce, e anche dal punto di vista diplomatico ce la chiarisce, la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, una giornata che sicuramente si muove molto sul fronte diplomatico. Questa mattina è intervenuto lo stesso presidente Vladimir Putin in una conferenza stampa proprio a proposito della crisi Ucraina. Мы считали, считаем и будем считать, что Украина наш Lo state ascoltando, il leader del Cremlino ha definito la caduta di Yanukovych e la conseguente instaurazione di un nuovo governo a Kiev un'azione incostituzionale, una presa del potere con le armi, quindi un golpe. Yanukovych è l'unico presidente legittimo, ha aggiunto Putin, che però subito dopo ha chiaramente detto che Yanukovych non ha in alcun avvenire politico. Sul versante militare Putin ha detto che l'eventuale decisione di impiegare forze armate russe in Ucraina sarebbe legittima, avendo la Russia ricevuto una richiesta del presidente legittimo e quindi Yanukovych. Al momento però non è necessario inviare truppe, ha detto Putin, anche se noi dobbiamo registrare che questa mattina due navi militari russe sono entrate nel Bosforo provenienti dal Mediterraneo dirette verso il Mar Nero. Questo è quanto ha riferito la stampa turca. Non vogliamo annettere la Crimea, ha detto ancora Putin, che poi ha precisato: non sono soldati russi quelli che circondano le basi della Crimea. Per quel che riguarda il G8, siamo pronti a tenere il vertice, ma i nostri partner non vogliono venire, ha aggiunto Putin, quindi non vengano se non vogliono. Sempre questa mattina Mosca ha deciso che da aprile cancellerà lo sconto sul gas concesso a dicembre all'Ucraina, e questo è un notevole problema per Kiev, che ha già fatto sapere di non poter pagare nemmeno il conto di febbraio. Più strettamente dal punto di vista diplomatico, questa mattina il ministro degli esteri tedesco Steinmeier, dopo aver incontrato a Ginevra il collega russo Lavrov, ha detto che non c'è alcuna soluzione in vista con la Russia. Oggi Lavrov dovrebbe incontrare anche l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton, a Madrid. E sempre oggi a Bruxelles si svolgerà il vertice straordinario della NATO. Grazie Valeria, e proprio a questo dedichiamo un approfondimento perché abbiamo il servizio da Bruxelles. Continuano i contatti diplomatici tra la Russia e i paesi occidentali per tentare di raffreddare le tensioni in Ucraina e in particolare in Crimea. Questa mattina il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov. L'incontro, che si è svolto a Ginevra, è stato, secondo l'uomo politico tedesco, lungo e difficile, e non è stato sufficiente per dire che una soluzione è in vista. Sempre oggi Lavrov vedrà a Madrid l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Catherine Ashton. L'Europa ha condannato la Russia per l'atto di aggressione compiuto nei confronti dell'Ucraina e minacciato sanzioni. Capi di Stato e di Governo dell'Unione si incontreranno giovedì qui a Bruxelles per prendere una decisione se nel frattempo la Russia non avrà modificato il suo atteggiamento. misure economiche rischiano di essere difficili da adottare, poiché la Russia è un importante fornitore di gas per molti paesi europei. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E veniamo al lato italiano. Tra poco, tra 55 minuti, interverrà in Parlamento la ministra degli Esteri. Sentiamo il servizio. Tenere aperto il dialogo con la Russia per trovare una soluzione politica e diplomatica sulla crisi in Ucraina. L'Italia fa sua la linea emersa a Bruxelles nella riunione straordinaria dei ministri degli esteri, che ieri ha condannato l'invio di truppe in Crimea da parte di Mosca e ha chiesto il loro ritiro immediato. L'Europa in queste ore lavora alla creazione di un gruppo di contatto per favorire la ripresa di un confronto diretto fra Russia e Ucraina, ma anche all'invio di una missione dell'OCSE. Quanto al G8 di Sochi, per ora il boicottaggio riguarda soltanto i lavori preparatori, ha spiegato il nostro ministro degli esteri Federica Mogherini, secondo la quale queste sono ore cruciali e la parola d'ordine è abbassare i toni. Abbiamo parlato della possibilità di avere delle misure mirate, lasciando ad un passaggio successivo, che sarà presumibilmente quello del Consiglio di giovedì, la valutazione anche in base agli sviluppi di queste ore. Sulla crisi in Ucraina e sul confronto con i partner europei, Mogherini riferirà nel pomeriggio alle commissioni esteri di Camera e Senato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sta facendo discutere, se ne parla molto soprattutto in rete, questo intervento. Sentiamo. Just because I work here for RT doesn't mean I don't have editorial independence. And I can't stress enough how strongly I am against any state intervention in a sovereign nation's affairs. Chi è questa? Questa è Abby Martin, conduttrice dell'emissione in inglese di Russia Television, che è di fatto la TV di Stato russa, un po' come la nostra Rai. In conclusione della puntata di ieri Breaking the Set, in onda da Washington, non si è risparmiata contro l'intervento militare in Ucraina, di cui aveva appena discusso in trasmissione. Il fatto che lavori qui non significa che non ho indipendenza editoriale, dice, non sottolineerò mai abbastanza quanto sia contraria, lo avete sentito anche, ad ogni intervento esterno negli affari di una nazione sovrana. Forse farà discutere questo anche in Russia. Noi invece veniamo al lato italiano, il lato italiano della politica, soprattutto della legge elettorale, che dovrebbe iniziare il suo percorso alla Camera in un terreno minato soprattutto dagli emendamenti del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Il Comitato dei Nove, che si riunisce per l'esame degli emendamenti sulla legge elettorale, è slittato qui a Montecitorio alle 16, decisione presa all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionale della Camera, e questo ritardo insomma non fa ben sperare. Matteo Renzi però è convinto che l'Italicum andrà in porto, ce la facciamo, la portiamo a casa, risponde su Twitter al direttore di Vanity Fair, sarà una vera rivoluzione. Ma il via libera non sembra però così scontato, Forza Italia sul piede di guerra per l'emendamento da Torre che prevede l'applicazione della nuova legge solo per la Camera dei Deputati, di fatto un allungamento della legislatura, perché sarebbe necessario a quel punto la riforma costituzionale sul Senato. Questa mattina vertice quindi a Palazzo Grazioli sulla legge elettorale con Silvio Berlusconi appena rientrato a Roma, Denis Verdini, Giovanni Toti e capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato Brunetta e Romani. Si calmano invece i rapporti nel governo tra il Premier e il nuovo centrodestra dopo le dimissioni di Antonio Gentile da sottosegretario alle infrastrutture, anche se dal Movimento 5 Stelle chiedono anche le dimissioni da segretario della presidenza del Senato. Ricordiamo, Gentile è infatti senatore. Dal nuovo centrodestra invece si chiede a Renzi di non sostituire Gentile al governo. Per il momento quindi da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, sentiamo l'analisi come sempre di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Le dimissioni opportune del sottosegretario Gentile evitano a Renzi di annegare in un bicchiere d'acqua velenosa, ma di sicuro l'episodio non ha fatto bene all'immagine del governo, anzi l'intera vicenda dei sottosegretari, dal loro numero ad alcuni dei nomi presentati, contrasta con l'idea del ministero fresco e giovane, sganciato dai vecchi riti che il Premier voleva trasmettere. Inoltre il caso Gentile lascia una ferita nei rapporti con Alfano, che renderà più difficile la gestione di alcuni dossier politici. In primo luogo la questione decisiva della riforma elettorale, dove non è agevole per Renzi tener fede al patto con Berlusconi proprio per la resistenza dei centristi. Le leggi della politica, sia pure di una discutibile politica, si stanno prendendo alla loro rivincita. E meno male per il Presidente del Consiglio che elogia di egocentrismo in cui sembra affondare Beppe Grillo, ora in urto anche con il sindaco di Parma, lo aiuta nella navigazione, perché i sondaggi indicano che le forze antisistema, così come crescono a valanga, possono anche perdere a valanga, sommerse dai propri stessi errori. Una notizia appena battuta dalle agenzie: alcuni tifosi della Juventus sono stati individuati e denunciati per il caso degli striscioni inneggianti a Superga, la tragedia di Superga, esposti allo Juventus Stadium in occasione dell'ultimo derby. La Digos, da quel che si apprende, sta eseguendo delle perquisizioni. Il governo, si diceva, anche di governo, ma naturalmente non solo di quello, hanno parlato Sergio Marchionne e John Elkann oggi a Ginevra, dove si sta svolgendo il Salone dell'Auto e dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Che cosa hanno detto? Beh, hanno detto sul tema della politica, Marchionne e Elkann sono stati abbastanza abbottonati. Marchionne ha detto: noi siamo filogovernativi per definizione, non hanno voluto dare giudizi su come è avvenuto il cambio di governo. Per quanto riguarda le misure proposte, ha detto che il taglio del cuneo fiscale è una misura che era dovuta da tempo. Per quanto riguarda il Jobs Act, ha detto che quello che conta per la Fiat sono per ora gli accordi che sono stati validati dai referendum, sono stati firmati con numerose sigle sindacali già da qualche anno e che costituiscono la base per l'impegno della Fiat in Italia, e quindi ha ribadito che questo impegno non cambia, arrivi o non arrivi il Jobs Act, che servirebbe invece, secondo lui, ad attirare eventualmente nuovi investimenti e comunque a cominciare a tentare di risolvere il problema della disoccupazione. E qui, di qui veniamo, Andrea, appunto invece a quel che hanno detto in merito all'azienda, in merito a Fiat. Beh, diciamo che oggi la notizia importante è che viene presentata la piccola Jeep, la Jeep Renegade, che è un'auto che si basa su una piattaforma in comune su una futura 500, la 500X, ma soprattutto un'auto che verrà prodotta dallo stabilimento di Melfi, quindi la prima Jeep prodotta in Europa, in particolare in Italia, che insieme alla sua, diciamo, sorella 500 dovrebbe contribuire a saturare lo stabilimento di Melfi, che risente della calo della vecchia Punto, e quindi a riportare non solo tutti i dipendenti di Melfi in fabbrica, ma ha detto Marchionne di sperare che possa essere impiegato anche qualcuno di Pomigliano se le cose dovessero andare bene. Naturalmente l'ostacolo maggiore è sempre la congiuntura del mercato dell'auto, sia in Europa che in Italia. Marchionne si è detto piuttosto prudente, è stato prudente su questo fatto, ha detto che non si aspetta sicuramente una ripresa per quest'anno, nonostante qualche segnale positivo, e quindi per ora appunto non ci si deve attendere più di tanto, anche se ricordiamo che le due auto di cui ho appena parlato, sia la 500X che la piccola Jeep, verranno esportate anche in tutto il mondo, in particolare anche negli Stati Uniti, e quindi comunque dovrebbero avere anche sbocchi su mercati molto più dinamici di quanto non sia per ora l'Italia. Grazie ad Andrea Malani, inviato del Sole 24 Ore a Ginevra, dove si svolge il Salone dell'Auto. Per restare sulla politica, in realtà quella dei sindaci, oggi è stata diffusa l'indagine trimestrale Monitor Città Aree Metropolitane dell'Istituto di Ricerca Data Media sulla soddisfazione dei cittadini sull'operato dei sindaci. Il migliore, Michele Emiliano, sindaco di Bari, con il 60,1% di soddisfazione, diciamo così, e ultimo in classifica invece De Magistris, il sindaco di Napoli. Anna Marino ha raggiunto Michele Emiliano. I sindaci hanno la fortuna di poter fare i propri sondaggi camminando a piedi per le città, io grazie a Dio non ho scorta, quindi quando ne combino qualcuna leggo il disappunto nello sguardo dei miei concittadini. Loro, devo dire, 10 anni fa mi hanno preso dalla Procura della Repubblica, mi hanno trasformato in un sindaco e mi hanno sostenuto fino alla fine in maniera straordinaria. Se io avessi potuto ricandidarmi mi sarei ricandidato, perché è stata l'esperienza istituzionale e umana più bella della mia vita. Purtroppo la legge non lo consente, devo solo ringraziarli però, perché senza il loro sostegno non avrei ottenuto i risultati che abbiamo ottenuto. Bari è anche la prima città italiana per solidità del bilancio e di questi tempi essere una città tranquilla economicamente è molto importante. Viene diciamo a braccetto con Torino e Milano? Beh, Torino e Milano sono ovviamente due città strepitose, bellissime, dove si vive molto bene, ma che dal punto di vista economico stanno un po' patendo un passato sicuramente glorioso e gli investimenti che hanno realizzato, quindi sono città che hanno anche una pressione fiscale abbastanza elevata, non per colpa dei due sindaci in carica. Ebbene, abbiamo parlato di Luigi De Magistris, ultimo in classifica. Beh, rimaniamo in zone, per così dire, di pertinenza. Andiamo a Pompei, dove ci sono stati tre crolli in 48 ore. È riunito, c'è una riunione al Ministero dei Beni Culturali e intanto interviene anche l'Europa. Adriana Fracchia, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno anche agli ascoltatori. Oggi vertice, come hai detto tu, al Ministero dei Beni Culturali dopo l'ennesimo crollo a Pompei, l'allarme lanciato dall'UNESCO. Tre crolli in pochi giorni al Tempio di Venere, poi nella cosiddetta necropoli di Porta Nocera e infine in Via Nola. Senza interventi straordinari il sito Patrimonio dell'Umanità continuerà a sbriciolarsi, dicono all'UNESCO. Ogni crollo per me è una sconfitta enorme. Chiedo con forza alle autorità italiane di prendersi cura di Pompei perché è un sito emblematico non solo per l'Europa ma per il mondo. Lo ha detto poco fa il commissario UE per la politica regionale Johannes Hahn, aggiungendo che ci saranno nuovi fondi UE a disposizione per interventi sul sito. Ricordiamo che dei 105 milioni già stanziati dall'Europa nel 2011 per Pompei ne sono stati utilizzati finora la metà e su 55 progetti ne sono stati banditi solo 14. È la burocrazia ad uccidere Pompei. I ritardi fanno più danni dei bombardamenti del 1943, dicono alla soprintendenza. Salvare questo colossale patrimonio artistico dell'umanità si configura dunque come una corsa contro il tempo. Gli ostacoli sono dietro ad ogni angolo. Intanto, appunto, stamani questa riunione in via del Collegio Romano con il neo ministro dei beni culturali Franceschini, il soprintendente incaricato di Pompei Massimo Osanna, il direttore generale del grande progetto Pompei Giovanni Nistri e poi anche il direttore del generale delle antichità Luigi Malnati. È la burocrazia appunto a uccidere Pompei, mentre la pioggia e l'incuria però continuano a flagellare i resti romani. Adesso la patata bollente è nelle mani del neo ministro Franceschini. Vedremo cosa succederà dopo questo vertice. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ucraina, Putin parla di golpe contro Yanukovych, ma poi lo scarica. Si dice pronto a difendere i russi nel paese, ma la tensione sembra allentarsi perché Mosca ha fermato le esercitazioni. Legge elettorale, dovrebbe essere il giorno dell'aula, l'Italicum approda la Camera, ci sono centinaia di emendamenti, tra cui alcuni del PD che fanno discutere, Renzi dice ce la faremo, sarà una rivoluzione. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Lombardia, l'organizzazione aveva anche una sorta di banca clandestina, ne parleremo più avanti, così come parleremo della vicenda di Reggio Calabria, dove c'è stato un ennesimo episodio di intimidazione nei confronti di un negozio nel centro della città. Pompei, ogni crollo è una sconfitta, l'Italia si attivi, dice il commissario europeo agli affari regionali, in corso un vertice al Ministero dei Beni Culturali, come vi abbiamo appena raccontato. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, da quel che ha sentito dalle dichiarazioni di Putin delle ultime ore, da quello che riusciamo a capire, pur con informazioni frammentarie, da quel che succede sul campo, le sembra che effettivamente la tensione si stia allentando, come abbiamo detto nei nostri titoli, o c'è il rischio di qualche coda, per così dire? Ma beh, sembra che Putin stia consolidando, diciamo così, la presa sulla Crimea, cercando di capire sostanzialmente come il mondo sta reagendo, perché credo che in una parte della sua testa l'ambizione ancora di riuscire a fare una sorta di takeover per Ucraina, di riportarla, diciamo così, sotto la sua influenza ci sia. Quindi le dichiarazioni di oggi sostanzialmente, Parsi, sono delle dichiarazioni per tastare il terreno, secondo lei, per sentire un po' che aria tira dal lato delle cancellerie internazionali, anche insomma mettendo in pubblico dichiarazioni più morbide, ecco. Io penso di sì, perché penso che stia usando sostanzialmente la sponda tedesca. La Germania si è mossa in maniera molto molto morbida nei confronti della Russia, anche per i suoi interessi commerciali legati anche agli approvvigionamenti di gas e alla rilevanza del mercato russo per l'industria tedesca. Senta, lei si sente, io so che poi fare le previsioni in questo ambito è sempre difficile, perché poi entrare nella testa di un uomo come Putin e dell'idea che hanno i russi sull'Ucraina è piuttosto difficile. Si sente di escludere azioni più incisive da parte della Russia, magari addirittura con un ingresso, diciamo, nella parte non russofona dell'Ucraina? Ma questo lo vedo più difficile, soprattutto sull'immediato. Ma anche detto che, vista come sta andando la borsa di Mosca e diciamo così, la salutazione delle molte importanti multinazionali russe, credo che anche questo prema su Putin per muoversi con più cautela. La ringrazio, grazie a Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buona giornata. Grazie a voi. E saluto Massimo Varazzani, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Massimo Varazzani è commissario straordinario per il debito di Roma, perché abbiamo parlato tanto di Roma e del Salva Roma nei giorni scorsi, ma forse non lo sapete, lo abbiamo solamente accennato. Roma ha di fatto una sorta di doppia gestione contabile, Varazzani, per così dire, no? Nel senso che c'è il debito fino a che anno è quello che gestisce? Fino al 28 aprile del 2008. Perfetto, e il debito che gestisce Varazzani è fino al 28 aprile del 2008, e poi il resto della gestione è nelle mani sostanzialmente dell'amministrazione. Quanto debito sta gestendo in questo momento? Allora, la gestione commissariale è stata istituita pur con un decreto legge del 2008 e dopo un po' di accertamenti, diciamo l'ultimo accertamento fatto per legge il 26 luglio 2010 dava queste risultanze: un totale di 22,4 miliardi di debiti, di cui 8,6 debiti non finanziari e 13,8 di debiti finanziari, cioè i mutui, diciamo, contratti negli anni precedenti dalle amministrazioni appunto di prima. C'è un particolare che va detto, che in questa somma diciamo elevata ci sono compresi gli interessi a finire di tutti i mutui vecchi, i cui ultimi scadono nel 2048. E quindi è un debito potenziale, no? Cioè, se uno paga, certo, tutti i mutui, fino alla fine deve pagare questi interessi, che sono 6,7 miliardi, ecco, quindi sì, diciamo è una cifra molto molto grande. 22,4 miliardi di debito, sì, però di appunto 6, esatto, di cui 6,7, quindi sono solo contabili, ecco, di interessi a finire, che si pagano se uno continua a tenere le rate. Se uno, come io sto provando a fare, o come potrà fare lo Stato più avanti, estingue subito il mutuo, paga solo il capitale, e questi interessi ovviamente a finire non li paga più. Ecco, diciamo è una particolarità della gestione commissariale dover segnare questi interessi per far vedere quanto finanza bisogna, certo, a finire. Certo, ogni anno quanto deve e quanto può estinguere lei sostanzialmente? Allora, diciamo ho le risorse per estinguere questi, vediamo però forse più interessante quanto siamo adesso, va, perché se no le persone bene che sappiano. Allora, sì, il 31 dicembre 2013 i saldi provvisori cambieranno di poco, danno un debito di 14,9 miliardi rimasto, di cui 11,3 debiti finanziari, 11,4 e 3,5 debiti non finanziari, quindi in 3 anni e mezzo abbiamo pagato 7 miliardi e mezzo di debiti, pagati o cancellati, verificati. Tenga conto che nei 14,9 che le sto dicendo ci sono dentro anche i 4,85 del decreto non convertito, che noi abbiamo segnato a dicembre in base alla legge vigente dello Stato. Ecco, bravissimo, io la volevo anche su questo, sì, punto, perché noi, giusto per chiarirlo ancora una volta agli ascoltatori, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi ma vogliamo specificarlo, i famosi 485 milioni previsti nel decreto Salva Roma non sono soldi che vengono erogati dallo Stato, ma sono soldi della gestione commissariale che vengono trasferiti alla gestione ordinaria, cioè passano da questo debito che abbiamo raccontato, che è quello che, cioè dai soldi che servirebbero sostanzialmente per la gestione di questo debito fino al 2008, passano ad essere soldi della gestione dell'amministrazione sostanzialmente. No, no, non è, non è, no, così, non è così. La cosa sta in questi termini. Allora, infatti ci sono l'individuazione delle partite fra le varie competenze della gestione commissariale, che è un organo dello Stato, sì, che ha bilancio completamente separato dalla gestione ordinaria del Comune, diciamo richiede tempo, perché le posizioni erano oltre 100, se non ricordo male, 112.000, sì, e diciamo nella fretta dei primi commissari data per legge, diciamo, gli accertamenti erano solo diciamo cartacei, poi lei torna alla carta, deve andare a vedere gli elementi che compongono i debiti o i crediti. Quindi ci sono 6 partite che possono variare di competenza. Tra queste, la stata individuata da prima, questi 485 milioni che cosa sono? Sono nel 2009 lo Stato erogò 500 milioni a Roma Capitale anche per ripianare il debito pregresso, questa è la dicitura della norma. Okay. Roma ne trattenne 15 milioni per le sue esigenze e 485 le versò Roma Capitale alla gestione commissariale senza assegnarselo a credito. Quindi si era ritenuto nella prima versione del decreto che questi soldi potessero essere restituiti, no? Perché in qualche modo, voglio dire, non erano segnati nei crediti del, sì, comune verso la gestione commissariale. Oggi forse Renellius per pensa, invece il decreto nuovo cosa fa? Fa un'altra considerazione, a mio avviso, più giusta, che è questa. Però mi spieghi, sì, Varazzani, dato che a questo punto abbiamo poco tempo, le crea un problema questo trasferimento? No, per me non è alcun problema, perché ci tengo a precisare, questi qua sono trasferimenti contabili di crediti, di debiti, che io, il decreto va letto nelle due parti, è vero che io mi prendo questo debito in più, è già compreso in questi 14,9, tengo a ripetere, quindi in 3 anni saremmo diminuiti senza questo di 8 miliardi, non di 7,5 circa, ma voglio dire, io ho ritrasferito però a Roma, in base sempre al decreto decaduto, anche dei crediti che avevo verso entità partecipate al comune, in specie l'ATAC, per una cifra molto elevata, oltre 400 milioni. E quindi vado in compensazione, per cui i soldi veri ce ne sono pochi, però il comune, ripeto, non ha bisogno di cassa il comune ha in abbondanza, ha circa più di 600 milioni il comune in cassa, che non può utilizzare in parte almeno per le note normative. Quindi il comune ha bisogno di competenza, cioè a fronte delle uscite previste, ha bisogno di entrate certe, e un'entrata certa è sicuramente un credito verso il commissario. Mi dice un'ultima cosa, Varazzani, sì, perché qualche ascoltatore adesso inizia a chiedercelo via SMS. Ci dice il debito che lei sta gestendo, quello fino al 2008, sì, in che anni si è accumulato? In tutti gli anni precedenti, in tutte le amministrazioni precedenti, cioè ci sono addirittura le partite, cioè, molto vecchie. Dal dopoguerra in avanti? Diciamo, da tutte le amministrazioni precedenti, sono delle code anche delle Olimpiadi, ma sono cifre veramente molto molto modeste, ecco, diciamo, è stato fatto nelle ultime 3-4-5 consigliature, insomma, questa è la sostanza. Quindi. Nelle ultime 4-5 consigliature, sì, prima del 2008. Del 2008, esattamente. Grazie a Massimo Varazzani, commissario straordinario per il debito di Roma, e grazie anche per la correzione, perché l'avevamo capita in un altro modo, anche da come ce l'avevano raccontata altri interlocutori, quindi importante sempre chiarire. La ringrazio. Noi chiudiamo questa parte parlando un po' di televisione, in particolare di Mediaset. La grande bellezza, il grande fratello, la grande scommessa. Dopo un anno di purgatorio conseguente all'ultimo flop, ieri sera è ripartito il grande fratello, l'edizione numero 13. Contro aveva un ottimo concorrente, la miniserie Il giudice meschino con Luca Zingaretti. E si è comportato bene. Rai 1 ha vinto per spettatori 6 milioni e 400 contro 5 milioni e 400, ma con il GF molto più lungo, Canale 5 ha raccolto il 24,64 di share contro il 22,50. Nel momento della sovrapposizione delle due trasmissioni c'era uno scarto minimo. Buoni i risultati sui social, 113.000 tweet, 9 posizioni su 10 nei trend topic durante la serata. Effetto sorpresa, certo, ora sta alla trasmissione reggere. Questa sera invece l'evento, la grande bellezza in TV, preceduta da uno spot che recita un film Mediaset prodotto da Medusa. Un po' di malumore tra gli esercenti cinema che sostengono come una diffusione televisiva possa nuovamente nuocere al rimbalzo nelle sale. Ma tant'è, chi lo vuole vedere al cinema lo vedrà in sala. Da mesi è comunque disponibile in DVD, per non parlare delle perfette copie illegali in rete. E da gennaio è già stato programmato su Infinity il servizio on demand di Mediaset Premium. Per questa sera spot, le interruzioni permesse dalla legge, venduti a tempi record. Ma il rientro auspicato è soprattutto d'immagine. La prossima scommessa? Il varietà di Luca e Paolo, JAS, acronimo che sta per Great Italian Association. Insomma, grande ancora una volta. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Una notizia appena battuta dalle agenzie creerà chiaramente discussione politica, perché il Tribunale di Milano ha negato a Silvio Berlusconi, per la sua condanna di reclusione a 4 anni di reclusione per il caso Mediaset, il permesso di espatrio per andare al congresso del Partito Popolare Europeo a Dublino il 6 e il 7 marzo. Questo è quello che dice l'ANSA citando fonti giudiziarie. In Ucraina Putin parla di golpe contro Yanukovych, si dice pronto a difendere i russi nel paese, ma la tensione sembra lenta. La legge elettorale, l'Italicum approda la Camera tra centinaia di emendamenti, Renzi dice ce la faremo, sarà una rivoluzione. Reggio Calabria bomba in un negozio, esplosa ieri sera in pieno centro, stanno aumentando gli episodi di intimidazione legati al racket, ne parleremo tra un attimo, ma ora è il momento della borsa. Borse in diretta. È una giornata dopo la giornata molto pesante di ieri e molto pesante soprattutto a Mosca, di rimbalzo, più 2,57% il FTSE MIB, più 2,5% il FTSE All Share. Positive anche le altre piazze finanziarie, Francoforte più 2,17%, Parigi più 2,25%, Londra più 1,61%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Si allenta la tensione in Ucraina e si allenta la tensione sui mercati. Sì, le borse credono all'allentamento delle tensioni in Ucraina, appunto dopo che il presidente russo Putin ha ordinato il ritiro delle truppe impegnate in esercitazioni. I listini hanno accelerato ulteriormente a fine mattinata dopo che il presidente russo ha dichiarato che per ora non serve un intervento militare in Ucraina. L'attenzione dei mercati sul dossier resta comunque alta. Brevemente i singoli titoli, ancora le popolari in grandissima luce vedo, sì. Un po' tutti i bancari, sì. Però le popolari in particolare. Sì, ieri erano state molto penalizzate, restano in evidenza in vista di una possibile ripresa del processo di consolidamento del comparto. Il miglior titolo è il Banco Popolare che fa più 7%, ma va molto bene anche la Popolare di Milano, più 4,8%, più 2,6%. La Popolare Emilia Romagna alla vigilia del Consiglio di Amministrazione sul bilancio. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso e Radio Corriere Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E siamo a parlare di 'Ndrangheta, lo faremo tra un attimo per un nuovo episodio di intimidazione avvenuto a Reggio Calabria, ma lo facciamo anche subito invece con una storia che invece arriva dal nord. Il loro obiettivo, Giuseppe pensa bene e lo dichiara esplicitamente, come per i polipi dice, i tentacoli devono arrivare dappertutto, ci sono le condizioni per poterlo fare, proclama il boss di Desio. E fino ad ora questa locale di 'Ndrangheta in piena Brianza ci stava riuscendo, riorganizzandosi anche dopo i 300 arresti dell'operazione Infinito e approfittando pure della crisi. Nelle intercettazioni lui era la Banca d'Italia, quest'uomo di 'Ndrangheta affiliato già dagli anni 80, che presta denaro a tassi usurai a decine di imprenditori minacciati anche di morte, ma che ancora una volta non denunciano. Lui di sé pensa bene, dice di essere una lavanderia ed è anche il lavaggio attraverso scatole cinesi e mille prestanome di un flusso costante di soldi sporchi che ora gli viene contestato. Soldi finiti anche su conti svizzeri e rientrati talvolta col più classico degli spalloni. Nel mondo di questo clan che addestra i testimoni dei processi, che strozza aziende in crisi, che maneggia i soldi ma pure le pistole, si esplorano però anche nuove strade, come il tentativo fallito di importare oro di contrabbando dal Senegal, perché come i polipi i boss pensano sempre di riuscire a sfuggire di mano. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E questa è la storia che arriva dal nord, mentre invece ce n'è una che arriva dal sud, perché ieri un'esplosione ha squassato un negozio di gastronomia nel centro storico di Reggio Calabria. Tra l'altro in un orario, le 23, nel quale insomma potevano rimanere coinvolte anche delle persone, dei passanti. È un episodio tra i tanti, ma che è l'ulteriore segnale di un aumento di episodi di questo genere in città. Saluto Francesco Spanò, referente Regino di Libera, responsabile regionale degli sportelli antiracket SOS Giustizia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci conferma l'aumento di episodi di questo genere? Sì, vi confermo sicuramente questo aumento sia nel numero che nella gravità. Tutto sommato sono soltanto l'emergere di un fenomeno che rimane costante. Poi c'è da interrogarsi su quali siano le cause di questa emersione. E quali sono le cause secondo lei? A nostro avviso si incrocia da una parte un certo mutare degli equilibri fra le cosche in città. Consideri che la città di Reggio Calabria è divisa in 17 locali di 'ndrangheta e quindi è spartito il territorio fra circa 50 famiglie. Dall'altra parte però la crisi economica incide sia in una maggiore aggressività delle cosche, ma dall'altra parte anche in una maggiore resistenza degli imprenditori ad assoggettarsi, come sempre stato, alle estorsioni. Perché, dice, non, la sostanza è questa, non abbiamo i soldi nemmeno per pagare il pizzo, per dirla molto brutalmente. Beh sì, questo è uno dei fattori, questo è sicuramente uno dei fattori, perché quello che è lo zoccolo duro degli introiti delle cosche, specie in periodi di difficoltà economica, si scontra con un tessuto economico che è davvero allo stremo. Tessuto economico allo stremo, dice. Allora, c'è stato questo episodio e poi 20 giorni fa ce n'è stato un altro in un bar, sempre a Reggio Calabria, se non sbaglio. E però dicono, insomma, praticamente non c'è una notte che non ne avvenga uno. Beh, sì, questi sono gli episodi più eclatanti. Nello stesso bar, oltre alla bomba di 20 giorni fa, vi è stato ritrovamento in pieno giorno di un ordigno inesploso, un chiaro gesto dimostrativo. Ma poi ci sono almeno ogni notte alcune intimidazioni che, sebbene non arrivino alle cronache nazionali, sono il segno di un tentativo di mantenere il controllo del territorio in maniera ferrea da parte delle cosche in tutte le zone della città. Voi che cosa fate da questo punto di vista, come sportelli antiracket naturalmente? Noi abbiamo un'attività appunto di ascolto e di accompagnamento alla denuncia. Nel 2013 abbiamo seguito circa 60 casi di vittime di estorsione e di usura. Quando ad esempio avvengono episodi come questi, noi inviamo una lettera nella quale invitiamo mettiamo a conoscenza gli imprenditori delle normative nazionali che consentono loro di accedere a dei fondi di solidarietà, ad esempio. Cerchiamo di instaurare un primo contatto. Senta Spanò, quello che mi chiedo io, no? Da normale cittadino e da persona che ha una conoscenza superficiale di questi fenomeni, quello che dico è: se viene fatto esplodere un negozio, evidentemente perché l'imprenditore non ha pagato o ha deciso di non pagare, evidentemente però non ha nemmeno denunciato se la notizia non esce. Allora vorrei capire da questo punto di vista il clima com'è, se cresce il numero di imprenditori che si rivolge ad associazioni come la vostra o che comunque si rivolge alle forze dell'ordine, oppure se la situazione in Calabria è piuttosto statica e a Reggio Calabria in particolare. È indubbio che il numero stia crescendo, la disponibilità degli imprenditori a collaborare è in aumento, non un aumento eclatante, ma è sicuramente, noi individuiamo un aumento. Purtroppo il meccanismo che lei descriveva non è in realtà proprio questo. Un'indagine molto importante che adesso è a processo, il processo Meta, dimostra come la tecnica delle cosche sia di far sì che gli imprenditori siano loro a rivolgersi preventivamente al riferimento della cosca del territorio, e quando non lo fanno mettono le bombe. non si va posta a posta a chiedere il pizzo, e questo complica un po' le cose per l'imprenditore e subisce un attentato senza avere mai aver avuto una richiesta estorsiva esplicita. Senza mai averla avuta esplicita, cioè, insomma, un po' come si pagano le tasse, insomma, no? Cioè, esattamente. Nel senso che se non è che mi deve arrivare l'avviso, io la pago, e se no mi arriva l'avviso sostanzialmente. Esattamente così. Perché espone meno le cosche al rischio di essere individuate dalle indagini. E questo è il caso. E voi ci avete parlato, siete riusciti a parlarci con l'imprenditore che è stato colpito questa notte, Spanò, oppure no? Ancora, contiamo di farlo nelle prossime ore. La ringrazio, grazie a Francesco Spanò, referente Regino di Libera e responsabile regionale degli sportelli antiracket SOS Giustizia, per questo racconto, per questi chiarimenti e per queste informazioni. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il segretario di Stato americano Kerry è arrivato a Kiev. Secondo indiscrezioni che stanno circolando in questi minuti, gli Stati Uniti avrebbero offerto all'Ucraina garanzie sui prestiti per $1 miliardo, oltre ad un aiuto tecnico alla banca centrale e la lotta alla corruzione. Intanto parla Putin e parla di golpe contro Yanukovych, però nello stesso tempo lo scarica, sembra allentarsi la tensione perché Mosca ha fermato le esercitazioni. L'Italicum, ossia la legge elettorale, approda alla Camera. Ci sono centinaia di emendamenti, tra cui alcuni del PD, che creano divisione all'interno dello stesso Partito Democratico. Renzi dice su Twitter: ce la faremo, sarà una rivoluzione. Maxi operazione, ve ne abbiamo parlato poco fa, scusate, contro l''Ndrangheta in Lombardia. L'organizzazione aveva anche una sorta di banca clandestina a Seveso. Pompei, ogni crollo è una sconfitta. L'Italia si attivi, dice il commissario europeo agli affari regionali. In corso un vertice al Ministero dei Beni Culturali. Il Tribunale di Milano, stando a quello che riferiscono alcune indiscrezioni, ha deciso di negare a Silvio Berlusconi il permesso di espatrio per recarsi al congresso del Partito Popolare Europeo a Dublino il 6 e 7 marzo. Questo in conseguenza della condanna a 4 anni di reclusione per il caso Mediaset e per il quale è stato revocato il passaporto. Il momento di America 24 è di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. During the 5 years of your presidency, you and I and Israel and the United States have. Bibi Netanyahu, il primo ministro israeliano a Washington, incontro alla Casa Bianca con Barack Obama, un incontro molto freddo, anche perché l'onda lunga della crisi ucraina ha le sue conseguenze sul Medio Oriente, sullo scacchiere medio orientale. Aggiungo su alcune svolte strategiche che Barack Obama ha deciso di perseguire lo scorso anno, che forse oggi, alla luce di quello che ha fatto Putin in Ucraina, forse sembrano meno prudenti di quello che potevano sembrare alcuni mesi fa. Cosa è successo? È successo che a un certo punto Barack Obama ha aperto alla Siria, in qualche modo avallato, anche se informalmente e senza mai approvarlo in modo definitivo, ma avallato fra gli esperti l'idea che forse il regime di Assad potesse continuare. C'è stato l'accordo per il disarmo chimico della Siria, un accordo che è stato mediato proprio da Putin. C'è stato poi l'accordo con l'Iran per procedere verso un disarmo graduale o un congelamento di alcune delle operazioni per la creazione di un arsenale atomico da parte di Teheran. Anche lì la posizione americana si è leggermente modificata. Prima si era detto: cominceremo a negoziare solo quando l'Iran rinuncerà alla creazione di armi atomiche, e dopodiché invece si è cominciato a negoziare prima che l'Iran accettasse di smantellare il suo arsenale nucleare. Per entrambi gli scenari il ruolo di Vladimir Putin era chiave. In sostanza Barack Obama si è in qualche modo affidato a Putin per andare avanti in Medio Oriente. Questo suo passo in avanti ha creato freddezza in Israele. Israele improvvisamente vede che l'America di Obama pensa più alla Russia, all'Iran e alla Siria che non ad aiutare l'alleato storico israeliano. Ecco, è in questa atmosfera che i due si sono visti ieri, ma un'atmosfera che avvantaggia Netanyahu, se vogliamo, perché oggi Barack Obama si rende conto che Putin non è più quel partner su cui forse pensava di poter contare. l'approccio win-win, tutti possono vincere se si lavora insieme, proclamato dal segretario di Stato Kerry, dallo stesso presidente americano, in realtà è stato sostituito dall'approccio zero-sum game, dall'approccio di Putin, che chiaramente conferma che il suo progresso potrà esserci solo nel momento in cui il suo interlocutore perderà. Ecco, e dunque Obama interviene sull'Ucraina, dice: se la Russia continuerà sulla strada attuale, noi stiamo esaminando una serie di misure economiche, diplomatiche, l'obiettivo è di isolare la Russia. Queste misure avranno un impatto negativo sull'economia russa e sul suo status internazionale. Dunque Obama si rende conto che deve alzare il tiro per cercare di costringere Putin al rispetto della legalità internazionale. Ecco, di questa situazione ho parlato con un esperto che devo dire è molto interessante, perché si chiama Nina Khrushcheva, è la nipote di Nikita Khrushchev, il leader russo che, pensate, donò, regalò la Crimea all'Ucraina nel 1956. È venuto negli Stati Uniti negli anni 90 per fare un master a Princeton, pensate, in letteratura comparata. Poi ha cambiato il suo interesse passato agli affari internazionali. Oggi insegna alla New School qui a New York. Vi faccio riascoltare la mia chiacchierata con lei. Intanto sull'ultimatum che la Russia avrebbe dato alle truppe ucraine. Beh, dice, negare l'ultimatum fa parte della strategia di Putin, ma nel frattempo le truppe russe restano in Crimea. E Putin che cosa ha in mente? Beh, lui ormai è convinto di essersi ripreso la Crimea, mi dice la Khrushcheva. Bisogna vedere se la comunità internazionale gli consentirà di tenerla. Il problema della Russia dal punto di vista economico non è da poco. L'economia russa dipende molto dall'esportazione di petrolio e gas e dunque delle sanzioni potrebbero in effetti danneggiare Mosca. Ecco, poi ho chiesto alla Khrushcheva che cosa pensa che il nonno, anzi il bisnonno, avrebbe pensato di questa mossa di Putin. Ecco, mi risponde, lui era molto affezionato alla Crimea, probabilmente non approverebbe. La ragione del trasferimento era più geografica che altro, era anche economica. La Crimea e l'Ucraina, secondo lui, erano molto simili anche dal punto di vista delle risorse, sono più ricche, la Russia era più povera. E un'altra ragione per la cessione della Crimea all'Ucraina è che Khrushchev aveva iniziato la decentralizzazione della Russia dopo il forte accentramento del periodo stalinista. Ecco, chiedo alla Khrushcheva qual è la via d'uscita, cosa sta pensando davvero Vladimir Putin in questa situazione in cui si è messo, che ovviamente non è una situazione facile neanche per lui. La risposta è che, intanto si tratterà di vedere quanto le minacce funzionano, perché Putin sicuramente non sembra essere stato intimidito da queste minacce, perché poi ci vuole l'azione. Soprattutto, mi dice, Putin resterà in Crimea, la Crimea è persa, non tornerà più all'Ucraina. Si tratta, dice la Khrushcheva, di trovare un modo, una formula diplomatica per far sì che l'Ucraina e la Russia si mettano d'accordo e dunque si salvino quantomeno le apparenze. Forse, dice, gli Stati Uniti e l'Europa potranno ottenere altre concessioni, per esempio che l'offensiva si limiti alla sola Crimea, che non ci saranno degli spargimenti di sangue. Ecco, gli Stati Uniti, dice, però devono essere assolutamente in prima fila, direttamente coinvolti in questo negoziato, perché la reputazione di Barack Obama, che poi è già debole, sul piano internazionale si indebolirebbe se gli Stati Uniti lasciano che la Crimea e la Russia parlino da sole. Barack Obama deve essere in prima fila, anche la Germania di Angela Merkel deve essere in prima fila. E poi chiedo alla Khrushcheva, ma Putin è pericoloso? Quanto è pericoloso? È pericoloso non solo militarmente per quello che ha fatto, ma perché sta trascinando la Russia nell'abisso e non se ne rende conto. Infatti la Russia in questo momento ha un comportamento imbarazzante ed è debole sul piano strategico. La mia impressione è che a un certo punto saranno gli stessi russi a mettere da parte Putin, perché sembra ormai un leader fuori controllo. Un'ultima domanda, qual è il ricordo che ha la nipote di Nikita Khrushchev, questo leader straordinario che, vi ricordo, è all'origine poi di questa crisi internazionale con la Crimea al centro, Crimea, vi ripeto, che fu regalata da Khrushchev all'Ucraina nel 1956. Sentiamo la risposta. I knew he was important, I didn't know exactly how important he was. Ecco, mi dice, ero molto piccola quando l'ho conosciuto, non era più il leader russo, ma sapevo che era un uomo importante, anche se non sapevo bene fino a che punto. Ricordo come una specie di nuvola nera quando andavamo a visitarlo ogni weekend, come quando si entra nella casa di una persona malata. Ricordo anche che credeva molto nel valore del lavoro e della terra, e questo era faticoso per noi perché ci faceva andare a raccogliere le zucche nei campi, ragione per cui io non sopporto la natura.